got a sweet chick. She a neat chick. The she's part of makes me tick. Mama, hey, hey, hey. Clickety click a sweet chick. Hey, hey, hey, hey. The high heels on for the baby blues. What a sack. Hey, hey, hey, hey. Purple lipstick for the very first time. Man, oh man, hey, hey, hey. It was a night. Hey, hey, hey, hey. Everybody stop, we're on a dime to look. Hey, hey, hey, hey. Even my heart, my heart got a shook. Hey, hey, hey, hey. She's my clickety click a stick chick. She's Miss Rhythm, she's Miss Rhyme. Oh man, she is mine. I said, oh, I got a stick chick. She's a neat chick, but she what makes me tick. Mama, clickety click a stick chick. Yeah, don't you know she's a stick. Mama, mama, eccoci di nuovo a una nuova puntata di Slick Chick su Radio Wombat, Wombat Radio, come vi piace di più. Oggi, mercoledì 23 agosto, siamo quasi alla fine di questo caldo e siccitoso agosto, almeno dalle nostre parti qui nella caverna del Wombat. E prima che me lo dimentico, vi do tutti i contatti nostri soliti, più importanti almeno, ovvero il sito wombat.noblogs.org, dove vi invito a dare un'occhiata al palinsesto. E piano piano stiamo ritornando alla vita, nonostante l'agosto. Dalla prossima settimana ricominceranno un po' di altre trasmissioni, ma anche questa settimana comunque ridiamo in replica le vecchie trasmissioni che magari vi siete persi durante l'anno. Quindi insomma, quello più la nostra bobina con un po' di musica varia. Quindi insomma, date un'occhiata al sito e al palinsesto e a tutte le varie trasmissioni per non perdervi assolutamente neanche un grammo del Wombat. E poi, dicevamo, altri contatti, la casella di posta, la mail, quindi posta wombat@insiberia.net, a cui scrivere. Tra le altre cose, potete anche scriverci, ad esempio, per suggerirmi in particolare, anche perché non è che c'ho tanti altri che mi aiutano a fare questa trasmissione, suggerirmi un po' di temi e cose che vi piacerebbe di cui vi piacerebbe disquisire a Slick Chick. E non ve lo dico a caso, perché questa puntata di oggi ha una storia e un'origine ben precisa. L'argomento, ve lo dico subito, è lo zodiaco. Attenzione, siamo sul fricchettone, cioè rischio fricchettonaggio, però dai, datemi un po' di fiducia che non vi deluderò assolutamente. E a suggerire questo argomento sono stati un'amica e un amico che vivono a Copenaghen. Ripeto, Copenaghen, scusate, ma lo volevo sottolineare per farmi bella, che c'ho i fans che mi ascoltano da Copenaghen. Non è che tutti ce li hanno. Vabbè, sono fan anche dell'Accademia della Brusca, è vero, però ecco, volevo vantarmene. Insomma, a loro che vivono in quelle fredde e strane, bizzarre terre è dedicata questa puntata, ovviamente. Anche perché, oltre al tema del giorno, mi hanno anche dato delle dritte per dei pezzi di cui si assumeranno la responsabilità, e ve lo dirò durante la puntata. Cosa che peraltro, insomma, come vi dicevo, se lo volete fare anche voi altri è assolutamente gradito, quindi insomma aiutatemi con la fantasia, suggeritemi dei temi che non siano dei temi improponibili ma siano interessanti, magari anche dei brani correlati e quant'altro, perché vi ricordo Slick Chick funziona che si prende un tema o qualsiasi cosa. La settimana scorsa abbiamo parlato del caffè, quella prima dello shock rock, insomma un po' tutto quello che ci può venire in mente senza limiti, e si cerca di elaborare questo tema attraverso la musica, qualsiasi musica, di qualsiasi genere, senza grosse preclusioni. Allora, iniziamo subito e partiamo subito in grande stile con Diana Ross and the Supremes, perché questo doveva essere l'ultimo singolo dei Supremes prima della dipartita, diciamo così, di Diana Ross. Il pezzo però, assolutamente in maniera incredibile, fu abbastanza un flop. E insomma, sì, vabbè, dai, era sarcasmo, perché in effetti il pezzo non è che proprio sia una meraviglia, e quindi ne dovettero usare altri. Tutto ovviamente prodotto dalla Motown, manco a dirlo. E vi consiglio in particolare il videoclip, che è una perla, è veramente una perla. C'hanno dei vestitini che paiono delle grosse meduse glitterate, una sciccheria, guarda, veramente mi raccomando, non perdetevelo. L'album è Let the Sunshine In, che tra l'altro, rimando a un altro pezzo che vi faremo sentire dopo, del 1969, Diana Ross and the Supremes, appunto, il pezzo è No Matter What Sign You Are. Astrology. beh, io se ci ho un po' sputato sopra, però in effetti dai, non è così tremendo, ci poteva stare come ultimo singolo d'addio, ma così non è stato. In ogni caso, No Matter What Sign You Are era appunto un brano che, come avrete intuito dal fantastico testo, boh, parlava un po' in generale di tutti i segni zodiacali, che comunque ce ne può fregare di meno di quale segno sei. E ora, però, invece, questo era un po' il preludio, ecco, di Slick Chick, ma adesso invece ci addentriamo segno per segno, perché non è che faccio le cose a caso, e segno per segno andiamo a sviscerare appunto lo zodiaco. In realtà non lo so che ve l'aspettavate, vorreste questo da me, ma non vi leggerò l'oroscopo e non vi farò delle predizioni, perché non mi riesce, ma forse boh, fatevi influenzare dalla musica e secondo il vostro segno, il segno d'appartenenza, lasciatevi guidare dalle vibrazioni che questa fantastica musica che vi propongo oggi vi farà percepire. Ecco, a parte le cazzate, parliamo dei pesci. I pesci, ecco, rimaniamo sulle cose importanti, perché inizio dal fondo, ma non andrò in ordine, non ci sperate, vado completamente a caso perché non è che mi ricordo in che ordine stanno i segni zodiacali, e comunque sia i pesci. È un fatto importante, ancorché comunemente noto, che le apparenze molto spesso ingannano. Per esempio, sul pianeta Terra, l'uomo ha sempre pensato di essere la specie più intelligente del pianeta, quando invece era la terza. Secondi in ordine di intelligenza i delfini, i quali, alquanto singolarmente, erano a conoscenza da tempo dell'imminente distruzione del pianeta Terra. Avevano tentato più volte di avvertire l'umanità del pericolo, ma i loro segnali venivano interpretati come simpatici tentativi di colpire il pallone o fischi per ottenere succulenti bocconcini. Così, alla fine, decisero di lasciare la Terra coi loro mezzi. L'ultimo messaggio in assoluto venne interpretato come un incredibilmente sofisticato tentativo di doppio salto mortale rovesciato nel cerchio, fischiando l'inno americano. Ma in realtà il messaggio era questo: addio e grazie per tutto il pesce. Così inizia, l'avrete probabilmente riconosciuto, Guida Galattica per Autostoppisti, film del 2005 tratto dal romanzo di Douglas Adams, film e libro ormai entrambi oggetto di culto e venerazione. Questo è uno dei brani consigliatomi dai miei amichetti nordici e quindi ce lo andiamo ad ascoltare. E, appunto, versione italiana, perché sennò poi mi dite che non si capisce niente. So long and thanks for all the fish. Per il pesce, anche se in fondo ci ricresce, la vita a volte va così. L'intelligenza che c'è in voi non vi ha mai reso come noi, non c'è rispetto verso le cose belle. Vi salutiamo, grazie per come pesce. Il mondo si distruggerà, la colpa è vostra e si sa, e tanti lo sapevano già. La pesca qui è tragica, è fuori da ogni logica, a volte di voi non sono cattivi affatto. Addio, addio, addio, addio, addio, addio, addio, addio, addio, addio, vi salutiamo e grazie per tutto il pesce. Io in testa ho un pallino, posso avere un pesciolino. Una cosa vorrei fare, imparare a cantare. Grande gioia infinita, tutti Questi erano i 100 Watt Clock, Capricorn vs Cancer, ovvero Capricorno contro Cancro. È un 100 Watt Clock era un gruppo texano di Houston, in particolare degli anni 90, un po' fugaziani, come dire. E, proseguiamo nel nostro giretto tra i segni zodiacali e arriviamo all'Ariete. Per parlarvi dell'Ariete ho dovuto scomodare Ennio Morricone, perché Ennio Morricone ha fatto le musiche per il film Giornata Nera per l'Ariete. Giornata Nera per l'Ariete è un film appunto del 1971 di Luigi Bazzoni, che è uno di quei noir all'italiana come andavano nel periodo, ve lo ricorderete. Beh, se non vi ricordate gli anni 70, neanche io del resto, però almeno avrete presente le tinte, diciamo così. E un giornalista indaga su alcune misteriose uccisioni e si imbatte in torbide storie di quelle un po' brutal e psicologicamente provanti. La collega giornalista e astrologa invece è lo spunto che dà il titolo al film. E ci ascoltiamo prima proprio un pezzettino piccolo piccolo piccolo dal film e poi a seguire uno dei brani musicali della colonna musica che danno per l'appunto poi anche che raccolgono il titolo, perché di Ennio Morricone proprio il titolo della canzone Giornata Nera per l'Ariete, omonima, così così. Ciao! Allora, si può sapere cosa dice il mio oroscopo? Che il direttore ti aspetta da un'ora e che non è allegro per niente, a quanto sembra. Vuoi che interroghi le stelle? Troppo tardi. Proprio così. Mi dispiace veramente molto, Beard, ma sono costretto a dispensarvi dall'incarico. Non capisco. Haller mi ha telefonato e mi ha accennato che... Vi ha detto che sono sulla lista degli indiziati? Non esattamente. Sì? Tutto pronto, stanno aspettando. Vengo subito. Non vedo la ragione per mettermi da parte in un caso clamoroso come questo. Se non sbaglio io... Se non sbaglio, Build, io soltanto posso prendere delle decisioni qui dentro. Per questo vi annuncio che vi ho già fatto sostituire. Ci sei riuscito finalmente. Il capo ti aveva avvertito di non occuparti più del caso Binney. Mi fate vomitare, tutti quanti. Thank you. Ennio Morricone, La sua giornata nera per l'Ariete, film che vi consiglio di andare a riscoprire. E beh, comunque non ci allontaneremo troppo da queste atmosfere. Beh, nell'immediato sì, ma rimaniamo un po' in sospeso perché poi ci ritorneremo tra un po', ecco, perlomeno, come direbbe Lucarelli, ci ritorneremo. E un altro brano suggeritomi dai miei amici in Danimarca, di cui si prendono le responsabilità loro, è Like a Virgin. Ovviamente, parlando di segni zodiacali, dovevamo parlare della Vergine, e quindi, siccome siamo dei beceri, esattamente, mettiamo Like a Virgin. Like a Virgin è stata scritta da Billy Steinberg e Tom Kelly, che, boh, chissà chi sono, vabbè, sono due. L'idea alla base della canzone è nata quando Steinberg viveva nei vigneti di suo padre, e già qui ci sarebbe da immaginarsi la scena, ma noi non lo faremo. In un'intervista al Los Angeles Times, Steinberg spiegò che la canzone non è stata scritta per Madonna o un'altra cantante donna, ma è stata ispirata proprio dalle sue esperienze personali, cosa che fanno notare un po' tutti i critici, se guardate tutti quelli che parlano di questo pezzo. Io sono andata un po' a spulciare e tutti cascavano un po' dal pero dicendo: oh, ma è incredibile, ma non è stata scritta per una donna. E stupisce un sacco questa cosa, come se implicitamente il concetto di verginità dovesse per forza tassativamente essere associato al femminile e, per carità, mai al maschile. E invece no, è andata così. Il pezzo l'ha scritto Billy Steinberg nei vigneti, parlando proprio di se stesso. E il pezzo viene composto nel 1983, e per un intero anno si cerca la cantante giusta a cui farlo incidere, perché insomma po' ci voleva. Vengono contattate in diverse, che però rifiutano a causa del testo ambiguo, o per meglio dire esplicito, perché anche qui mi sembra che di ambiguo ci sia un po' poco. E alla fine della fiera, il brano arriva a un discografico della Warner Bros. Che lo affida a Madonna, e che, beh, aveva fatto stava costruendo il suo personaggio in questa maniera, quindi ci stava proprio perfettamente. Madonna stessa, a proposito della copertina dell'album, ha dichiarato: la gente si chiedeva cosa pensavo di rappresentare, la Vergine Maria o la prostituta. Fin da bambina ho imparato a vedere la contrapposizione di queste due immagini, e in questa copertina desideravo giocarci. Volevo vedere fondere insieme la Vergine Maria e la puttana. La foto è una dichiarazione di indipendenza: se vuoi essere una vergine fai pure, ma se vuoi fare la puttana hai tutto il cazzo di diritto di farlo. E questa è Madonna, che secondo me si è espressa in maniera ancora meno furbita, io direi che ci dobbiamo associare, che dobbiamo fare. D'altronde Madonna è un personaggio importante, se parla non è che dà fiato alla bocca. E quindi però ci ascoltiamo la versione di Like a Virgin non la versione originale, che palle, cioè tanto ormai la sapete che ve la devo far sentire a fare, ma in una versione molto più peperina, secondo me, di Richard Cheese. I made it through the wilderness Somehow I made it through. Didn't know how lost I was till I found you. I was beat, incomplete. I've been had. I was sad and blue, but you made me feel. Yes, you made me feel shiny and new, like a virgin. Hey! Touched for the very first time, like a virgin. Listen to your heartbeat, like a virgin. Ooh, like a virgin. Feels so good inside when you hold me and your heart beats and you love me. Oh, whoa, oh, oh, oh, whoa, oh, oh, oh, oh. Like a virgin. Richard Cheese, like a virgin, ovviamente. Allora, la vita è piena di compromessi, dobbiamo avere il coraggio delle nostre scelte, ma anche sapere quando fermarsi. Vi devo dare queste perle di saggezza. Riguardo allo zodiaco, mi avevano suggerito due brani, Nata sotto il segno dei pesci, di Venditti, e Acatoro, dei Pancreas. E va bene, ve lo devo dire, non ne ho avuto il coraggio, fatemene una colpa, non mi interessa, non sono stata abbastanza temeraria. E è andata così, no, ma me l'accollo, cioè ci stava tutto, andava messo, bisognava avere il coraggio delle proprie azioni, mettere i Pancreas, mettere anche Venditti, ma non ce l'ho fatta, non me la sono sentita e dopo lunghe, difficili e sofferte riflessioni ho deciso che no, non me la sentivo di mettere questa cosa in radio Wombat e quindi... Per il Toro, perché comunque del Toro dovevamo parlare a un certo punto, ho scelto un vigliacchissimo Roland Alfonso, che comunque è uno dei fondatori degli Scatalates, cazzo, e quindi, ma che, cioè, voglio dire, no? Mi sembra che mi sono difesa. E quindi ci ascoltiamo il Toro con Roland Alfonso and the Beverly's All Star. Thank you. adesso anche per questo brano in effetti sono stata veramente messa alla dura prova, anche per il prossimo brano. Si tratta, per altre ragioni peraltro, però sì, è andata così. Si tratta di Aquarius, o altrimenti Let the Sunshine In, che si riaggancia, che finezza al primo pezzo che abbiamo sentito delle Supremes. E ve lo ricorderete, se non ve lo ricordate basta ascoltare le prime note e ve lo ricordate subito, tratto da Hair, dal musical Hair, e poi in seguito anche dal film. Allora, insomma, di questo brano ne esistono delle versioni incredibili, ne esistono un sacco di versioni serie, seriose e tutto quanto, ma ne esistono anche delle versioni veramente incredibili. Io non sapevo veramente quale scegliere. In particolare c'era una versione spagnola live a Leningrado del 72, sottolineo Leningrado 72, e poi c'era anche una tedesca invece con Nina Hagen e degli altri improbabili cantanti, di un trash assolutamente superlativo, che tra l'altro vi consiglio di andare a vederveli su YouTube, perché guarda, cioè, veramente solo l'audio comunque non avrebbe reso l'idea e sarebbe stato riduttivo. Però non me la sono sentita anche qui, tanto ormai questa puntata è andata così, è iniziata e continuerà all'insegna della, come dire, della mancanza di coraggio, e quindi ho optato per il contegno e la dignità, e quindi il sobrissimo Boston Gay Men's Chorus, che vabbè, non ho idea di chi siano, però è un coro meraviglioso, che sono stupendi, e tra l'altro il video che accompagna questo pezzo vede loro, che sono tantissimi, ma lo sentirete, insomma, con questa fantastica magliettina rosa e tutto il resto un sobrissimo completo nero. Pezzo che dedico al trionfamento del noi, perché qui ci mancate veramente tantissimo. Tornate, vi prego. Quindi Boston Gay Men's Chorus, Aquarius, Let the Sunshine In. Aquarius, Aquarius, Aquarius, Aquarius, Aquarius, Aquarius, Aquarius, Aquarius, Aquarius, Aquarius, Aquarius, Aquarius, Aquarius, Aquarius, Aquarius, Aquarius, Aquarius, Aquarius, Aquarius, Aquarius, Aquarius, Aquarius, Aquarius, Aquarius, Aquarius, Aquarius, Aquarius, Aquarius, Aquarius, Aquarius, Aquarius, Aquarius, Aquarius, Aquarius, Aquarius, Aquarius, Aquarius, Aquarius, Aquarius, Aquarius, Aquarius, Aquarius, Aquarius, Aquarius, Aquarius, Aquarius, Aquarius, Aquarius, Aquarius, Aquarius, Aquarius, Aquarius, Aquarius, Aquarius, Aquarius, Aquarius, Aquarius, Aquarius, Aquarius, Aquarius, Aquarius, Aquarius, Aquarius, pesa troppo sul mio cuore, caro, tu mi vuoi troppo bene. Se mi fossi più lontano, se mi amassi un po' di meno, t'amerei con maggior passione. Troppo serio stai. Io invece sull'amore non ci scommetto mai. Questa era Françoise Hardy con La bilancia dell'amore, il cui sottotitolo potrebbe essere Sei tanto caro ma scollati. E quello prima, vi ricordo, era il Boston Gay Men's Chorus con Aquarius. E proseguiamo, non ci rimangono tanti brani, la puntata di oggi è abbastanza stringata. Vabbè, d'altra parte i segni zodiacali su 12 sono quelli sono. E però adesso basta con il trash, andiamo sulle cose un po' serie e ci ascoltiamo gli Einstürzende Neubauten. L'ho detto, guarda, non mi sono neanche impappinata troppo. Il nome in italiano di questo gruppo, dal nome veramente complesso, può essere tradotto tipo nuovi edifici che crollano. Su Wikipedia Italia perlomeno si legge: il nome del gruppo acquisì una visibilità inaspettata quando il 21 maggio del 1980 crollò il tetto della Haus der Kulturen der Welt, causando alcuni feriti e un morto. La conseguente attenzione che i media dedicarono al crollo della cosiddetta ostrica gravida, comunque i tedeschi ne sanno, diede al nome del gruppo una nuova dimensione, ovvero secondo me quella dei menagrami, però vabbè, questo Wikipedia non lo dice, ma penso sia evidente. Ma insomma, l'industria degli Einstürzende Neubauten ha tutta la consapevolezza anni 80 di vivere in un futuro post-bellico che stava già crollando, di fatto, dove tutte le promesse del benessere industriale si sgretolavano in un cumulo di macerie e tant'era. E poi, insomma, ce lo siamo vissuti un po' tutti anche dopo. Ma perché gemelli? Perché comunque ci doveva essere un segno zodiacale, se no vi stavo fregando. Perché gemelli? Perché nel 2003 hanno fatto uscire un album live, Gemini. Il nesso è un po' così, un po' sfilacciato, ma accontentatevi. Quindi Einstürzende Neubauten live album, cioè un album live, Gemini del 2003. E non ve l'ho detto il titolo, chissà, Ma non ce l'ho, sì, no, ce l'ho scritto. Die Explosion im Festspielhaus. Boh, chissà come cazzo si legge, vabbè, questo è. Explosion im Festspielhaus. Aber ja, Milliardenwirbel, Milliarden Wonne Feuer. Heraus, hineingeschleudert, Milchstraßen, Kamschat, Lavastrom, Ejakulat. Auf dem Höhepunkt des Ganzen, die Explosion im Festspielhaus. Explosion im Festspielhaus. Es bleiben Täler, Kurven, Mulden, ein Abdruck ihrer Formen. Im Gamma-Strahlen-Hintergrund. Dazwischen in der Schwärze verbreiten Botenstoffe Künder ihres Höhepunkts vom Ganzen nur ein Echo der Explosion im Festspielhaus. Die Explosion im Festspielhaus. Vabbè, e continuano così con rumorine sul microfono e cose simpatiche di questo tipo. Gli Essurzen de Neuboten con Der Explosion in Festspielhaus. L'ho detta meglio questa volta perché l'ho sentito che lo dicevano loro. E adesso vi stavo già per passare il pezzo sbagliato, ma invece no, ce n'è ancora un altro prima, quello che vi volevo mettere, che però non mi sta caricando. Niente, no, scusate, è un discorso tra me e me, ma va bene. Allora inverto l'ordine e vi faccio sentire prima un gruppo che sono i Leroy, che è un gruppo che ho visto di recente al Degenerò sur l'Herbe, un festival hardcore extra lusso, veramente extra lusso, con piscina e tutto quanto, e per gente di un certo calibro. E è da poco uscito il loro nuovo disco dei Leroy, prodotto dalla Koipur Records in versione CD, e in vinile invece in coproduzione per Sangue Dischi, Bloody Sound Factory, Sonatine, Taxi Driver, Fuzzy Cluster, UA o UEI, non so come si chiama, come si dice, e i nostri amici di Santa Valvola. Il pezzo che ascoltiamo non è però tratto da quest'ultimo disco, che è uscito appunto quest'anno nel 2017, ma da uno invece di qualche anno fa, che si intitolava Soma, del 2013. Quindi per soddisfare i leoni ci ascoltiamo Cuor Leone dei Leroy. Ultimo pezzo di questa sera, doveva essere il penultimo, ma invece è quello che vi accompagnerà a fine serata, boh, notte, dormire, non lo so, vabbè, dai, dormire mi sembra presto, vedete voi, e un pezzo di Bruno Nicolai, in particolare La Coda dello Scorpione, perché La Coda dello Scorpione si ritorna, che agganci che faccio oggi, da pezzo in pezzo, si ritorna ai film anni 70 italiani, perché infatti La Coda dello Scorpione è un film del 71 diretto da Sergio Martino, è un altro giallo, un po' meno noir, più classico, e il titolo fa riferimento a una coppia di gemelli quelli da polsino della camicia, con la forma di uno scorpione, indizio che sarà rilevante per la scoperta della verità nelle indagini, vabbè, ma a noi ci interessa il giusto. Quello che ci interessa di più in realtà è Bruno Nicolai. Bruno Nicolai era un compositore, peraltro molto amico di Morricone, grandi agganci stasera, con cui spesso aveva collaborato e con cui poi pare si litigò negli ultimi anni, per questioni legali e di varie copyright eccetera, robe sempre schifose e un po' inutili come ci piace ricordare. E i due lavorano insieme in particolare per Il Buono, il Brutto e il Cattivo e per Un Pugno di Dollari, insomma filmetti di Sergio Leone, dove Nicolai svolge il ruolo di supervisore musicale e direttore d'orchestra. Ma insomma, alla fine della fiera compose circa 80 musiche per film, film i cui titoli vale spesso la pena di ricordare, tipo La notte che Evelyn uscì dalla tomba, oppure Gli fumavano le Colt, lo chiamavano Camposanto, cioè lo stesso titolo, vabbè. È così, oppure Una vergine tra i morti viventi, o Tutti i colori del buio, che vale la pena citarlo perché ha dato il nome poi a un gruppo hardcore torinese, ma vabbè. Oppure uomo avvisato mezzo ammazzato, parola di Spirito Santo, cioè, c'erano veramente dei grandi titoli. Oppure perché quelle strane gocce di sangue sul corpo di Jennifer, giuro che è così. Oppure più famoso, il tuo vizio è una stanza chiusa e solo io ne ho la chiave. E vabbè, e tantissimi altri titoli che potete facilmente ricercare e che secondo me sarete curiosi di andare a riguardare. Ma a parte il cinema, scrive però anche per il teatro, Nicolai, per la radio e per la televisione, e oltre che per le arti, Nicolai mescola anche i generi e gli stili, come piace qui a Slick Chick. Fonde la dodecafonia alla bossa nova, per esempio, sperimenta con rumori, cantilene e motivetti. Lo sentirete appunto nella Coda dello Scorpione, è un ottimo esempio. Vi ricordo ancora una volta il sito wombat.noblogs.org, la casella di posta postawombat@insiberia.net, a cui scriverci. Mi raccomando, passate un buon fine agosto, ci riascoltiamo e risentiamo da questi microfoni wombattosi mercoledì prossimo, sempre intorno alle 21, e restiate poi in sintonia qui su Radio Wombat, perché comunque dopo c'è la bobina e altre repliche dopo seguiranno, oggi, domani e domani l'altro e per sempre. Ciao ciao, buonanotte.